Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Città Fujiko Live Club, trasmissione che ogni mercoledì per due ore vi fa ascoltare musica dal vivo, ogni mercoledì dalle 10.30 in poi, naturalmente il tutto su Radio Città Fujiko da Bologna, esattamente via Zanardi, sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, più naturalmente tutti i gadget elettronici possibili e immaginabili. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una cover, con una novità, e la malattia delle cover mi colpisce spesso e volentieri, no, inizia sempre con una novità e oggi è particolarmente succulenta perché, come avevo già annunciato, nelle scorse settimane sono usciti due album live di Neil Young, per cui oggi ce ne ascolteremo uno e fra un paio di settimane, giusto per fare un po' di intervallo, ci ascolteremo l'altra. Oggi è la volta di un album doppio che si chiama Somewhere Under the Rainbow, è stato registrato il 5 novembre del 1973, quindi fate voi i conti, sono tantissimi anni fa, nel locale omonimo, appunto il Rainbow di Londra, UK. L'album è accreditato a Neil Young e Santa Monica Flyers, che in realtà sono i soliti noti, vale a dire Ralph Molina alla batteria e Billy Talbot al basso, che sono poi la sezione ritmica dei Crazy Horse, Ben Keith che suona la steel guitar e Nils Lofgren che suona la chitarra, il piano e l'accordion. Nils Lofgren, molti di voi lo ricorderanno anche in tempi più recenti, anche attuali, nella E Street Band di Bruce Springsteen. Spero che non ci sia assolutamente bisogno di presentare Neil Young, uno dei mostri sacri della musica rock di tutti i tempi, oserei dire, perché è partito dagli anni 60 e ancora oggi è on stage vivo e vegeto, anche se naturalmente l'età colpisce parecchio. Questo Somewhere Under the Rainbow è l'ennesima uscita dagli archivi di Neil Young, che ha praticamente registrato tutti i concerti che ha fatto e ogni tanto va nei propri archivi e pesca, non so se a caso o con qualche ragionamento che però io non riesco a capire, e pesca appunto i concerti e li propone nella sua serie Archives. L'unico problema di questo album, che è molto bello, è che la registrazione non è assolutamente all'altezza della fama di Neil Young. Lui è un purista, addirittura tempo fa aveva studiato insieme a dei tecnici naturalmente un nuovo sistema audio che si chiamava Pono, che poi è finito nel nulla, perché lui voleva assolutamente il meglio, il top della qualità sonora. Purtroppo in questo doppio album questa qualità sonora non c'è, ma è un album spettacolare e inizia in un modo per me spettacolarissimo, perché è una delle mie canzoni preferite, molto triste, molto lenta, molto tranquilla, forse un po' troppo. Si chiama Tonight's the Night, Neil Young e the Santa Monica Flyers. Thank you. Trasferta britannica per Mr. Neil Young e i suoi accoliti, l'ho già detto prima, c'è anche Nils Lofgren all'interno di questa formazione, il tutto registrato il 5 novembre del 1973 al Rainbow di Londra, che doveva esserci un po' di musica ma non c'è stata, comunque va bene lo stesso. E il Rainbow è stato per anni uno dei teatri storici, uno dei teatri migliori, più attivi nella scena musicale londinese, per cui viene da dire assolutamente, assolutamente la scena mondiale. Aprì nel 1930 come cinema, si chiamava Finsbury Park Astoria, proprio perché è sito a Finsbury Park, è una parte a nord, nella parte nord diciamo della Greater London. Ed è durato fino al 1981, quindi diversi anni, oserei dire. Gli ultimi furono dedicati proprio alla musica e purtroppo adesso è diventata una chiesa evangelica brasiliana, una cosa un po' particolare. Comunque, come Rainbow partì nel 1971, quindi è durato 10 anni, e tutte le sere praticamente c'erano grandi concerti con una capacità di 2802 posti. E come avrete capito, la prima parte della trasmissione di oggi è dedicata a registrazioni effettuate appunto in quel del Rainbow, e altrettanto avrete capito che, siccome ha chiuso nel dicembre del 1981, non è che ci siano cose recentissime. E infatti iniziamo con una cosa registrata nel 1977, siamo insieme a una band americana, anche quella in trasferta, quindi in quel di Londra, e che ha registrato i concerti che ha fatto appunto Rainbow. Alcuni brani sono stati inseriti in Waiting for Columbus, che è uno dei migliori album live in assoluto di tutta la storia della registrazione live, per quel che mi riguarda. Qui aprirei una piccola parentesi, perché Waiting for Columbus esordì, diciamo così, come doppio album, doppio long play, doppio vinile, il 10 febbraio del 1978, poi è stato ripubblicato in due CD nel 2002 e nel 2022, lo scorso anno, ne è uscita una Super Deluxe Edition di 8 CD, che comprendeva tutti i concerti che erano stati registrati i cui pezzi furono scelti per essere inseriti in Waiting for Columbus. Il problema vero è che chi, come sottoscritto, ha sia il doppio long play che comprò a suo tempo, sia il doppio CD che ricomprò a suo tempo, non è che può andare a comprare anche il cofanetto di 8 CD, che fra l'altro non costa tantissimo. Purtroppo nel campo discografico non esistono i resi, non esistono gli scambi, come succede magari con le automobili, per cui la Super Deluxe Edition di 8 CD di Waiting for Columbus per me rimane una chimera. Andiamo avanti. Comunque, il pezzo che ho scelto per voi da questi Little Feat, grandissima band americana, si chiama Time Loves a Hero. Stage many years ago, took a fishing boat to where We're going down in the tube station at midnight. The distant echo of faraway voices calling faraway trains to take them home to the ones that they love but who love them forever. Rip me my hole and reflect my foot. Now I'm not inviting partially nightmares upon a few rappers and a snoring pipers. Mr. Jones got run down and I was a death wizard later of tomorrow. I'm in all night night down in the two station of midnight. Fumble for change and pull out the queen. Smiling, big daddy. I put you the money and pull out your bum behind me. I was missing the shadows, not blazing voices. As you waiting, hey boy, I shout. I'm you got your money, and I say, I'm gonna talk money and I turn my way, going, I'm on my way, I'm talking my way. Should be lining up a castle, we are now 6 foot 10 feet. But I should have lost his hand, pulling out the coat. Down in a two special midnight. Down in a two special midnight. I first felt a fist, and then a kick. I could not smell their breath. Smell top pops and when we swaps to get it right we can test. All I swear around me took a look at around me and it's all existence. That smell of brown leather buried it with the weapon. I see stars up and up to my senses. The deepest we got it longer. Now you two special midnight. La voce inconfondibile, la musica dei Jam per questo concerto registrato al Rainbow di Londra, registrato nel 1979, scusate, avevo perso il foglio. E The BBC è una doppia raccolta dei Jam che è uscita nel maggio del 2002, che in doppia, come dicevo, doppio CD, che in una tiratura limitata ha incluso un terzo CD, che è quello che ci siamo ascoltati, con un concerto appunto registrato al Rainbow di Londra il 4 dicembre del 1979. Per la cronaca, il pezzo si chiama Down in the Tube Station at Midnight, praticamente giù nella stazione della metropolitana a mezzanotte, se ricordo bene, in quel periodo quando Paul Weller scrisse questo brano. La metropolitana a mezzanotte era chiusa, per cui magari non era un posto molto salubre, ma Paul Weller, fra parentesi, sarà in concerto all'estero qui a Bologna il settembre prossimo, esattamente il 21, quindi un appuntamento da non perdere. tardi anni 60 e i primi anni 70 furono un periodo molto molto molto brutto dal punto di vista psicologico e salutare per Eric Clapton. Aveva grandissimi problemi di droga, è stato lì per lasciarci le penne parecchie volte e aveva completamente abbandonato la musica. I suoi amici cercarono di riportarlo alla musica e quindi il suo amico Pete Townshend degli Who e l'altro amico Ronnie Wood dei Rolling Stones affittarono il Rainbow e organizzarono un concerto proprio per sensibilizzare Eric Clapton di nuovo alla musica, per riportarlo alla musica. Quel concerto fu naturalmente registrato, è stato pubblicato con il titolo di Rainbow Concert nel settembre del 73 e poi è stato riedito con un sacco di brani che non apparivano sul primo album nel 1995. Quello che ho scelto per voi un po' forzatamente, perché il tempo stringe prima di arrivare alla pubblicità, è un super classico dei Cream Schema Badge. I thought it was written. by Bob Marley. What about a guy getting shot for being in the wrong place at the wrong time? This is called Johnny Was. Uno dei brani della top ten mia personale si chiama Johnny Wars, un brano accreditato a Rita Marley, in realtà scritto da Bob, che poi diede i crediti alla moglie probabilmente per farsi perdonare qualche scappatella. Il tutto interpretato dagli Steve Little Fingers, una grande band che proviene tuttora da Belfast, perché malgrado qualche interruzione dell'attività sono ancora attivi dal 1977, anche se come sempre accade l'unico musicista che è sempre stato nella formazione, che ne è il leader naturalmente, si chiama Jack Barnes, è il cantante e suona la chitarra. E poi in realtà nel 2006 Ellie McMurdy, il bassista originale della band che aveva lasciato la band nel 91, è tornato e adesso fa parte integrante della band, ma il capo rimane sempre Jack Burns. Hanks è l'album che ci siamo ascoltati, una contrazione per Thanks naturalmente, e tutto l'album è stato registrato alla Aylesbury di Friars, un sobborgo di Londra, e a parte questo che ci siamo ascoltati, proprio Johnny Was è stato registrato al Rainbow il 20 giugno del 1980 ed è la cosa più nuova che vi farò ascoltare in questa prima parte della trasmissione. Infatti torniamo indietro a 1973, siamo insieme ai Genesis, quelli veri, quelli con Peter Gabriel, il cofanetto che si chiama Archive 1977-1975, archivi 1967-1975, così facciamo felice anche chi è contrario alla lingua inglese. E è un ottimo cofanetto, comprende 4 CD come vi dicevo, i primi due la versione integrale di The Lamb Lies Down on Broadway, le altre cose assortite, registrazioni assortite, fra cui qualcuna, 4 se ricordo bene, registrate al Rainbow di Londra il 20 ottobre appunto del 1973. Ci andiamo ad ascoltare questo pezzo che è uno dei super classici dei Genesis, non ha bisogno di presentazioni, comunque per quei pochi che non lo sapessero, si chiama First of Fifth. Cuts off the time from you like a cancer growth is removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is magical, an immense. Na na na na na na. Grandissimi Genesis, quelli, ripeto, quelli veri, quelli con Peter Gabriel, quelli fino al 1975. Qui siamo nel 1973, Rainbow Theater di Londra, e i Genesis si stanno affermando come grandissima band in patria, mentre in Italia si erano già affermati abbondantemente. E questo cofanetto ottimo racchiude queste registrazioni fantastiche. Il tutto registrato, come dicevo, al Rainbow di Londra e da parte di questi Genesis che erano in concerto in questo locale il 20 ottobre del 1973. A concludere questa mini rassegna dedicata a registrazioni effettuate al Rainbow di Londra nel corso di un decennio, in pratica, come vi dicevo, dal 1971 al 1981, arriva un altro grande. Ci sono stati tantissimi bei concerti in quel del Rainbow e quello di Van Morrison del 23 luglio è stato 1973, anche questo è stato registrato e alcuni brani furono inseriti in quello splendido doppio album che si chiama It's Too Late to Stop Now, album che è stato pubblicato il 1 febbraio del 1974, ma poi contrariamente a quanto hanno fatto i Little Feat che vi ho fatto ascoltare in precedenza, che poi hanno riunito tutti i concerti in un unico cofanetto, qui diciamo la versione originale di It's Too Late to Stop Now, che era stata registrata in tre concerti, due americani e uno al Rainbow di Londra, qui sono stati pubblicati a parte insieme a un DVD. Infatti questo triplo più DVD album si chiama It's Too Late to Stop Now Volumes 2, 3, 4 and DVD. E vi lascio appunto e conclude questa prima parte Mr. Van Morrison. Walking hand in hand. Parte acustica dello show del 5 novembre 1973 al Rainbow Theatre di Londra, parte acustica da parte di Neil Young e dei suoi Santa Monica Flyers, che è stata immortalata in questo doppio CD che si chiama Somewhere Under the Rainbow, appunto in onore del locale nel quale è stato registrato. E come vi dicevo, la qualità sonora non è spettacolare, ma è sicuramente un ottimo album. Questo brano acustico che ci siamo ascoltati si chiama New Mama e appunto fa parte della parte acustica, scusate il gioco di parole, di questo album che in altri momenti è super super elettrico. Fra l'altro l'album è dedicato a Bruce Barry, che era stato per molto tempo il roadie di Neil Young. Bruce Barry però proprio all'inizio degli anni 70 morì per un'overdose e la cosa colpì tantissimo Neil Young, che appunto scrisse apposta per lui le Tonight's the Night che ci siamo ascoltati in precedenza, e di lì a poco poi sarebbe morto sempre per overdose anche Danny Whitten, il chitarrista dei Crazy Horse, e quindi fu veramente un periodo buio per il canadese. They now run. Come sempre nella seconda parte di Città Fuggico Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, ancora tantissime cose registrate in questo 26 aprile e quindi il criterio come sempre è quello di uno per ogni decade. Iniziamo velocemente dal 1969, siamo insieme ai grandissimi Grateful Dead. Non vi starò a ripercorrere la loro storia perché ve l'ho già detta tante volte, vi farò un piccolo riassunto perché il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto dal volume numero 26 della serie Dick Speaks, che era una serie che era curata da Dick Latvala, che pubblicava concerti dei Grateful Dead. Dick Latvala poi morì, non ricordo quando, più o meno alla fine degli anni 90, probabilmente nel 1999. Sono usciti 36 volumi della serie Dick Speaks, che è stata poi sostituita dalla Dave Speaks, curata da David Lemieux, che è arrivata proprio in questi giorni al numero 46. Comunque rimaniamo ai Dick Speaks, al numero 26, che è uno dei pochi doppi CD, perché sono quasi tutti tripli, sono addirittura quadrupli. È stato registrato all'Electric Theater di Chicago appunto il 26 aprile del 1969. Anche qui forzatamente la scelta è caduta su questo brano perché è uno dei più corti. Grateful Dead andavano veramente sempre per le lunghe. Doi Dead Rag, Grateful Dead. Everybody's doing that thing. Out there you haven't seen before now. red rag. Jacks and the deuces of wild and the aces crawling up and down your sleeve. Come back here, baby Louise, and tell me the name of the game that you play. Yes, it all fall down. Grateful Dead, registrati agli Electric Theater di Chicago il 26 aprile del 1969, Doing the Drag, si chiama questo brano che è apparso spesso nei loro concerti in quel periodo, ma poi è un po' caduto nel dimenticatoio. Comunque era la prima cosa per quel che riguarda Recorded Today di oggi, dal 1969. Andiamo al 1971, qui arriviamo con un album che ha fatto la storia della musica rock, perché dopo aver pisciato contro il monolite che si vede in copertina, gli Who pubblicarono questo splendido Who's Next, uno dei loro album migliori, se non il migliore, in long play, esattamente il 14 agosto del 1971. Poi è stato ripubblicato come doppio CD nel 2010 e nel secondo dischetto c'è un intero concerto registrato a Londra al Young Vic Theatre il 26 aprile del 1971. Fra le altre cose, questo concerto includeva il brano che ci andiamo ad ascoltare adesso, che si chiama Bergain. Just to win you, work all my life and I will. the best I ever had. Alla batteria c'era il grande Keith Moon e si sentiva una serie di rullate veramente fantastiche. Bergain, il pezzo che ci siamo ascoltati. Siamo all'Old Vic Theatre di Londra il 26 aprile del 1971. Il tutto contenuto nella ristampa di uno degli album che i critici saccenti chiamerebbero seminale. Si chiama Who's Next ed è chiaramente consigliato a tutti gli amanti della buona musica. The policemen, they're acting so tough. Arriviamo al 1988 insieme a una band gallese, una band che è stata attiva dal 1981 al 1991, però poi in seguito il leader, quello che è diventato il leader della band, Mike Peters, li ha rispolverati, diciamo così, nel 1999 fino ad arrivare ai giorni nostri. Sto parlando di una band che si chiama Alarm e che ha avuto un grande successo negli anni 80. Per un bel periodo sono stati concorrenti diretti degli U2, poi chiaramente anche in seguito allo scioglimento sono calati nelle quotazioni popolari, ma loro rimangono sempre una grande band. Nel 1988, esattamente il 26 aprile, erano in concerto al Wang Center for Performing Arts di Boston. La performance fu immortalata in un album che si chiama Electric Folklore Live, che ha un solo piccolo grande difetto: è cortissimo, cioè nel senso che dura praticamente come un mini album, neanche un long play. E la ristampa che è stata fatta in CD in seguito è esattamente uguale all'originale, quindi magari se avete il long play, il mini long play, anzi per meglio dire, tenetevi quello. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, lo ripeto, 26 aprile 1988, Alarm, il pezzo si chiama Blaze of Glory, uno dei loro grandi inni. This is called Going Out in a Blaze of Glory. My hands are held up. When your hands are held up high and you open up your heart and soul, but that's not enough for me. I remember that first. There is a moment you should speak up if you've got something to say. And there's no one to stand up, just get back. Going out in a place of glory, my heart is open wide. You've taken it there to work for me. There's nothing left to hide. Yeah. This doesn't explain why we are so twisted. In a bar, Johnny drinks, Johnny drinks, Johnny Walker runs up a bill he can't pay. He's drinking to the memory of a prince in a pauper's grave. Ash, go, Johnny, go, where the bruises don't show. In the churchyard where the nervous get wrecked. And turn off your wireless for 2 minutes. Cough up and pay your respects. And go to the park with vicars and tarts. Pray for their tormented souls. By American graffiti from elephants and castle. In Ford Capri orange. Johnny drinks, Johnny drinks, Johnny Walker runs up a bill that the Pope couldn't pay. He's drinking to the memory of a prince in a pauper's grave. Se dovessi premiare il più bel nome di una band, questa figurerebbe sicuramente nei primi posti. Si chiamano Carter, The Unstoppable Sex Machine, e lascio a voi la traduzione. È una band britannica, naturalmente, arrivavano dal sud di Londra e sono stati attivi in due tranche dall'87 al 1987 al 1998, quindi dal 2007 al 2014. Questo album live è composto da registrazioni effettuate in varie parti della Gran Bretagna, questa in particolare a Norwich, in un locale che si chiama Waterfront. Era il 26 aprile del 1992 è stato, fra parentesi, questo album, lo ripeto, si chiama Live, è stato pubblicato nel febbraio del 1999 e quindi è postumo dopo il primo scioglimento. E il brano in particolare si chiama A Prince in a Pauper's Grave, cioè un principe nella tomba di un povero. E sono molto felice di annunciare che le ultime due cose di Ricordi Today di oggi sono appannaggio di artisti italiani, completamente diversi, adesso le sentirete, però sono italiani e quindi mi fa moltissimo piacere farvi ascoltare i Mandolin Brothers, che è una grande band che viene da Pavia e che il 26 aprile del 2009 hanno festeggiato i 30 anni di attività, quindi siamo già oltre i 40 perché sono ancora attivi, e in particolare l'hanno festeggiata allo Spazio Musica di Pavia e tutto è stato registrato in questo ottimo album che si chiama 30 Lives e che comprende questo brano che ci andiamo ad ascoltare. Il brano si chiama Long Time Ago, loro si chiamano Mandolin Brothers. Okay, grazie, abbiamo un ospite con uno strumento molto delicato, Isha la tampura, dice il giorno. Grande band, questa dei Mandolin Brothers. Purtroppo le pochissime trasmissioni televisive italiane che si occupano di musica, fra virgolette, fra parentesi, cioè fra virgolette, non considerano mai band di questo tipo, né loro, né i Gang, né i Cheap Wine, né i Modern City Ramblers, sempre appannaggio le loro marchettate, secondo me, di personaggi più o meno famosi o personaggi che non si sa bene come si siano intrufolati in certe trasmissioni. Sto parlando nel caso specifico di Propaganda Live, che a volte offre cose musicali veramente stucchevoli, come l'ultimo venerdì. Comunque andiamo avanti. Mandolin Brothers, dicevo, registrato il 26 aprile del 2009, e il brano Long Time Ago, registrato appunto in occasione del trentennale della loro carriera, 30 Lives, ottimo album. A concludere Città Fujikola Live Club di oggi, e naturalmente anche Recorded Today, arriva una cosa molto particolare. Abbiamo esulo in un campo che non è esattamente il mio, semmai ce ne fosse uno, e sto parlando di jazz, sto parlando di Enrico Rava, che è uno dei più grandi trombettisti viventi all over the world, non solo italiani. E lui ha fatto tantissime cose, viene da Torino, dove è stato registrato, fra parentesi, l'album che ci andremo ad ascoltare adesso. E pensate, il primo album è stato da lui registrato nel 1972. Da quel momento ha fatto tanti album a proprio nome, tantissime collaborazioni. Ha vissuto per vario tempo sia in Argentina che a New York, ed è veramente un grande della musica jazz, oserei dire di tutti i tempi. Questo album si chiama Rava on the Road e ha bisogno di una piccola presentazione, nel senso che qualche anno fa il giornale La Repubblica pubblicò una serie di album dal vivo di jazz che erano veramente molto interessanti, fra cui appunto questo Rava on the Road che ci andremo ad ascoltare adesso. Il tutto è stato registrato con l'orchestra del Teatro Regio di Torino, diretta da Paolo Silvestri. E questa è la particolarità di questo album. Questo, fra parentesi, mi dà l'occasione di dirvi che la prossima settimana la prima parte sarà dedicata a band rock con orchestra, e che la novità che vi proporrò sarà appunto l'album con l'orchestra degli Who, l'ultimo album uscito da questo quartetto, anzi ormai un duo purtroppo incredibile. Ma andiamo. Il tutto, come dicevo, è stato registrato a Torino nel 2013, il 26 aprile, e prima però vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujikola Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 in poi. Vi ringrazio per l'ascolto. I brani sono numerati, si chiamano Rava on the Road dall'1 all'11. Quello che ho scelto per voi è il numero 4, Rava on the Road 4th, il tutto registrato il 26 aprile 2013 a Torino. Ciao a tutti da Nevio.